questo martedì 5 giugno. Intanto uno sguardo dai giornali a quello che succede nel mondo, la situazione finanziaria, il Sole 24 Ore, BCE spinge il piano salva euro, questo è il titolo di apertura. Per il Corriere della Sera, Obama preme sull'Europa, Repubblica, crisi, schiaffo USA all'Europa, La Stampa, crescita, patto Parigi, Roma, per il Messaggero, Obama, schiaffo all'Europa, perché la Casa Bianca ha detto gli interventi in Europa sono insufficienti. In Italia la politica per il Fatto Quotidiano, basta Monti, elezioni e il PD si spacca in due. Per Libero, Monti salva i trombati. Il Giornale, Monti non ci paga. L'Unità invece intervista il ministro Profumo all'istruzione con le annesse polemiche dopo l'annunciata riforma. A scuola si premierà l'impegno, questo è il titolo di apertura dell'Unità. Mentre il Manifesto, sempre sulla scuola, non me lo merito, e c'è una foto storica di bambine con il numero appeso 112, 121, 126, insomma il tema del merito è nella scuola. Prima voglio partire da un grande classico. In Italia quando si vuol fare qualcosa, l'esempio è questo, lo sappiamo, della discarica, l'avete già sentito, c'è Pian dell'Olmo, tutti i cittadini di Riano che hanno già bloccato il traffico, si vuol fare qualcosa, subito si protesta. Io non so se sia giusto o no, non lo so, ci informeremo. Ma lo schema è quello classico, cittadini in piazza, cittadini che bloccano e non si fa nulla. Volete due esempi di un'Italia bloccata? Oggi, pagina 6 della Stampa, chiusura dei tribunali. Ieri ne parlavo perché Lionello Mancini sul Sole 24 Ore lo rilanciava. Chiusura dei tribunali, i sindaci si ribellano. Così, titolo a pagina 6 della Stampa. Cioè, manco c'è l'idea, c'è forse un progetto e già i sindaci si ribellano. In Parlamento nasce una task force bipartisan per limare gli interventi. Francesco Grignetti racconta: l'ultima rivolta da segnalare riguarda Lamezia Terme. 11 sindaci dell'Interland con addosso la fascia tricolore, compreso il sindaco della città Gianni Speranza, ieri hanno manifestato per protestare contro la paventata chiusura del tribunale. Effetti dell'annunciata spending review al Ministero della Giustizia. Qui al solo annuncio dei tagli alle sedi dei giudici di pace e dei tribunali dei minori si è scatenato un diluvio di proteste, definite localismi dal governo, ma sta di fatto già le proteste. L'idea è quella di chiudere, per esempio, i giudici di pace con di un colpo, chiudere 674 sedi da parte del governo, oppure l'idea di chiudere tanti uffici giudiziari è un'idea del governo centrale, e subito si protesta, così, a priori, appena c'è l'ipotesi di una chiusura. Poi si dice fare la revisione della spesa, cercare di risparmiare. Volete un altro esempio? Pagina 11 del Corriere della Sera. Sergio Rizzo, stop l'ennesimo alla cessione delle caserme. Quante volte l'avete sentita anche questa, cari italiani? Cediamo le caserme inutilizzate, vuote. Da quanti anni? Ci provano inutilmente, ve lo dice Sergio Rizzo, dal 1992. E ogni volta c'è una scusa per non vendere le caserme inutilizzate. Adesso il motivo, come ha spiegato ieri l'agenzia Radiocor, è la mancanza di un piano definito di valorizzazione, che vuol dire non si capisce bene. Di conseguenza, la gara per la cessione di un blocco di caserme del valore di 1.325 milioni, bei soldini, che sarebbe dovuta partire concretamente entro la fine di maggio con la lettera di invito alle società immobiliari già preselezionate, è stata congelata per almeno 6 mesi. E voilà, altri 6 mesi così. Una dozzina d'anni fa l'ex ministro Vincenzo Visco accusò il ministro della difesa, o almeno il ministero della difesa, non collabora, sentenziò. Non sappiamo se la situazione sia sempre la stessa, ma di sicuro le difficoltà più grandi incontrate nelle dismissioni del patrimonio statale si sono riscontrate proprio con gli immobili militari. Ne sa qualcosa il sindaco di Firenze, Renzi, che aspetta il trasferimento al demanio comunale, come prevedono le norme sul federalismo demaniale, di una serie di caserme del centro urbano. Basta scorrere le dichiarazioni. 21 novembre 93, in vendita 114 caserme. 14 ottobre 94, difesa, in vendita caserme per compensare i tagli. 8 settembre 97, vendita caserme, entro il 13 ottobre la scelta dei pretendenti. E via di questo passo, quando nel 2003 poi Il Sole 24 Ore scrisse che a 10 anni di distanza dalle dismissioni avviate dall'ex ministro della difesa Andreatta c'erano ancora 560 caserme vuote da anni e destinate a essere vendute. Però non si vendono e non se ne fa niente. Manca il piano di valorizzazione e quindi teniamole così vuote. Vabbè, volevo legare a questo, giusto prima della pubblicità, appunto, gli articoli cominciano, ma la cronaca è la classica situazione in cui la cronaca quotidiana supera gli articoli di giornali per tempestività. Le proteste per la scelta di Pian dell'Olmo come possibile nuova discarica che dovrà sopperire alla saturazione della discarica di Malagrotta per Roma. Dopo le polemiche sulla discarica vicino a Villa Adriana, ci sono state polemiche, spaccature nel Consiglio dei Ministri e dunque non si è scelta quella località, si è scelta Pian dell'Olmo subito da parte del nuovo prefetto, commissario dei rifiuti Goffredo Sottile, che ha sostituito Pecoraro, quello che si è dimesso, e subito proteste, blocchi stradali, comunità in piazza che urlavano, avete sentito, noi chi siamo peggio degli altri, noi siamo cittadini di serie B, anche noi abbiamo i vincoli archeologici, insomma, io ripeto, può darsi che abbiano tutte le ragioni del mondo, non lo so, magari domani ce ne occuperemo, il dato di fatto è che quando si vuol fare qualcosa, qualsiasi cosa in Italia, anche quelle annunciate come la vendita delle caserme, come la chiusura dei tribunali inutili, come la chiusura degli ospedali inutili di cui abbiamo parlato ieri, e ci sono sempre dei localismi, chiamateli come volete, delle proteste, delle ragioni, delle comunità che vengono portate avanti e non si fa quasi nulla. Ma adesso arrivano i forbicioni della spending review, attendiamo, fiduciosi, pazienti, che entro qualche mese dovrebbero arrivare i tagli con il passo marziale degli anfibi del commissario Bondi, pronti per marciare con la tabella di marcia sulla revisione della spesa. Ottimismo, ci sentiamo tra 5 minuti. 24 mattino. E allora eccoci alle 7:35 minuti. Intanto i timori sui mercati finanziari mondiali e europei, intanto mondiali perché anche la Casa Bianca ieri con il portavoce Jay Carney, come racconta Beda Romano a pagina 3 del Sole 24 Ore, ha tuonato un po', tanto che molti giornali titolano schiaffo americano all'Europa. I mercati restano scettici sul fatto che le misure prese finora siano sufficienti per assicurare la ripresa in Europa e rimuovere il rischio che la crisi peggiori. Così ha detto il portavoce della Casa Bianca. Noi ovviamente crediamo che ulteriori passi debbano essere compiuti. Qualcuno ha ipotizzato anche un'America pronta a proteggersi economicamente, a isolarsi economicamente in maniera più ampia rispetto alla situazione e al momento attuale. Insomma, un'America che striglia l'Europa a dire fate di più e fate presto. E su cosa si muove l'Unione Europea? Il titolo di pagina 3 del Sole 24 Ore: l'Unione Europea stringe sull'integrazione politica. È stato smentito ciò che ieri diceva Repubblica, cioè un piano che faccia perdere la sovranità nazionale in nome di una sovranità europea, con delega sulle politiche fiscali, delega sulle politiche estere, tutto delegato all'Unione Europea centrale, insomma una sorta di sconfitta, di perdita di potere degli stati nazionali in nome di interessi superiori. Però certo l'Unione Europea stringe sull'integrazione politica, la Casa Bianca d'altronde incalza, fa sapere Beda Romano, e dice bisogna fare di più contro la crisi, e allora incalzata dalle crescenti pressioni della comunità internazionale l'Europa sta disperatamente lavorando alla fase 2 della zona euro come promesso dal presidente del Consiglio Europeo Van Rompuy. Intanto la Commissione presenterà domani il primo tassello di un'eventuale unione bancaria, mentre proprio ieri la Francia e l'esecutivo comunitario si sono espressi a favore di una ricapitalizzazione delle banche attraverso il meccanismo di stabilità ESM. Tra le opzioni c'è appunto l'unione bancaria. La Commissione domani presenterà una proposta di direttiva che serve a regolamentare in modo uniforme nell'Unione i fallimenti bancari. Si tratta, agli occhi del presidente della BCE Mario Draghi, di uno dei tre tasselli di una unione bancaria. Gli altri sono la responsabilità in solido di depositi bancari e istituti di credito, e una sorveglianza creditizia centralizzata a livello europeo. Certo, gli occhi sono tutti puntati sulla Spagna, che insieme alla Grecia sta vivendo, pare, le ore di maggiore tensione, tanto che il Corriere della Sera con Andrea Nicastro da Madrid a pagina 5 fa sapere che la Spagna sotto scacco, gli aiuti sono più vicini. Manca il sì della signora Merkel, e non è poco, fa sapere Nicastro, ma la Spagna è a un passo dall'ottenere dall'Europa i miliardi necessari per tenere a galla le sue banche senza passare dalle forche del salvataggio statale. Se l'operazione avesse il via libera, l'orgoglio nazionale ne uscirebbe intatto, si eviterebbe l'effetto contagio e diverrebbe un passo da ricordare nella storia della sopravvivenza dell'euro. Certo, è stata decisiva l'entrata in scena della Francia, di François Hollande, appunto con ieri il ministro dell'economia francese e il commissario europeo Olli Rehn hanno appoggiato la creazione di un'unione bancaria capace di garantire la solvibilità degli istituti di credito continentali, e sta di fatto che la Spagna potrebbe essere vicina al salvataggio con l'arrivo di miliardi per le sue banche. Certo, la situazione rimane molto volatile, molto difficile, con la Casa Bianca che ci guarda, ci guata da oltreoceano e dice fate di più, altrimenti così non va bene. Venendo in Italia, invece, ieri la giornata politica è stata terremotata da un'intervista che il responsabile economico del Partito Democratico, Stefano Fassina, ha rilasciato alla Reuters, nella quale Fassina ha detto non si esclude che si possa andare al voto in autunno. Allora, voi immaginate comunque un governo credibile o meno, di tecnici, che può fare le cose giuste o sbagliate, ma che ogni giorno, ogni due per due, si sente dire che forse mancherà l'appoggio politico prima del previsto entro il 2013. In questa situazione c'è da dire non è neanche facile governare, e ogni giorno non passa giorno senza che qualche responsabile politico di partiti politici dica la sua. L'ultima è questa di Fassina. Fassina, per la verità, fa anche una nuova intervista oggi al Manifesto, intervistato da Daniela Preziosi a pagina 4 del Manifesto. Intanto dice, rileggetevi al completo l'intervista della Reuters, non è che ho detto si vada al voto a ottobre, però non è che smentisce, Fassina dice comunque sono stati corretti. Ho chiesto di verificare rapidamente se esiste la possibilità di riformare la legge elettorale. Se questa non c'è, se il governo non ha la forza di fare altre riforme, dovremmo considerare la possibilità di anticipare la legge finanziaria per il 2013 e votare in autunno. Dunque, conferma Fassina. E questo ha creato malumori. Bersani ha subito smentito, tanto che qualcuno ha detto ora si dovrebbe dimettere Fassina. Lui però al Manifesto dice «Io ho espresso una forte preoccupazione per un rischio, non si smentisce una preoccupazione». E infatti Bersani ha detto «Il PD conferma che l'obiettivo sono le elezioni del 2013». «Io esprimo una preoccupazione politica, sono preoccupato e non per il risultato del mio partito ma per le istituzioni democratiche del mio paese». Insomma, già ci sono i cosiddetti falchi del Popolo della Libertà che vogliono andare al voto. Ora anche nel PD c'è qualcuno che esplicitamente Fassina dice perché no andare al voto. Secondo alcune indiscrezioni del Corriere della Sera, dietro Fassina c'è D'Alema, sempre D'Alema. D'Alema è sempre dietro a qualcosa. Ci sono la Lega che vuole andare al voto, l'Italia dei Valori che vuole andare al voto, insomma cominciano a diventare sempre di più le persone che vogliono andare al voto. Infatti nel retroscena politico di Carmelo Lopapa a pagina 12 di Repubblica, Monti lancia l'allarme ai leader: così ci indebolite nei rapporti con l'Unione Europea. Ecco quello che dicevo prima, cioè un governo che deve trattare, tra l'altro, un momento delicato, molto delicato, l'Unione Europea, ogni giorno si vede messo sulla graticola con dichiarazioni a dire non so se sia il caso di arrivare fino al 2013. Sta di fatto che è tutto un movimento, perché male che vada nel 2013 si voterà, cioè male che vada o bene che vada, comunque al massimo tra un anno si voterà, forse anche prima. Ecco perché è tutto un gran movimento a livello politico. Noi ne parleremo alle 8.30. Pare che la nuova moda sia questa delle liste civiche, e a destra e a sinistra, e Saviano e il Partito di Repubblica, e vabbè, il successo del Movimento 5 Stelle e Beppe Grillo, che non sono certo un partito, non un tradizionale partito, e ognuno vuole lanciare la propria lista civica, e Montezemolo scende in campo e non scende in campo, e però se scende in campo non farà certo i partiti ma volti nuovi. Insomma, c'è questa... c'è questo fermento nel volere volti nuovi, nel volere schieramenti nuovi, basta i soliti partiti. Allora, ecco qua, per esempio, anche il Popolo della Libertà ha lanciato le prime liste civiche. Io l'ho detto prima, Gerry Scotti, guardate, non è una barzelletta. Silvio pensa a Gerry Scotti per sfidare Grillo. Questo è il titolo a pagina 11 di Libero. Per la verità, Libero, proprio Libero con Maria Giovanna Maglie, lanciò una settimana fa il tormentone: ci vorrebbe Gerry Scotti come volto nuovo per il Popolo della Libertà, un uomo affermato dal punto di vista televisivo, un uomo di comunicazione, un uomo che tra l'altro ha già fatto politica, non... è già stato parlamentare, non so se ve lo ricordate. Comunque, Salvatore Dama su Libero: chi vuole essere segretario? La voce del ritorno di Gerry Scotti in politica ha due destini possibili: o è la boiata dell'anno o è la notizia del 2012. Boiata per i pochi deputati del PDL che si incontrano in transatlantico in un lunedì di non lavoro parlamentare. Ah, ecco, tanto ci dicono che, come al solito, lunedì alla Camera non si è lavorato, come in tutta Italia, no? Fanno sì con la testa, dicono che la cosa gira, poi scoppiano a ridere. Perché allora uno lo scrive? Perché Silvio Berlusconi è in fase creativa, in vena di pazze idee, come ha detto quella sulla zecca e stampare l'euro, che però era una battuta, ci ha fatto sapere dopo 12 ore. E quindi c'è l'idea di Gerry Scotti. Noi, tra l'altro, ripeto, lo stiamo cercando, come un po' credo tutti i giornalisti. Se posso fare un appello pubblico, se mai ci ascoltasse Gerry Scotti, se vuole venire qui a 24 mattino, siamo disponibili ad ascoltare le sue conferme o smentite. Arriva o non arriva il momento di Gerry Scotti in politica, o meglio il ritorno di Gerry Scotti in politica, chi lo sa. Sicuramente arrivano le liste civiche, tanto che guardate anche sul Giornale a pagina 7. Sorpresa nel PDL, ecco le prime due liste civiche. Allora, il tesoriere del Popolo della Libertà, Rocco Crimi, ha già depositato al Ministero dello Sviluppo Economico la lista civica dal nome Italia Pulita. Ora poi, che la usi o non la usi Berlusconi non si sa, però c'è questo nome, Italia Pulita, mentre Giorgio Stracquadagno, che ha manifestato vari malumori all'interno di questo Popolo della Libertà, ha depositato un altro marchio, che è questo Altra Italia, una sorta di pensatoio, dice lui. Insomma, vedete, è il momento delle liste civiche. A sinistra invece si interroga sul partito se Repubblica scende in campo. Oggi ancora sul Fatto Quotidiano a pagina 2 Luca Telese parla. Ieri c'era il direttore di Repubblica Ezio Mauro da Lilli Gruber. Ricetta Repubblica per i democratici, la lista Gomorra, trasmentite, nuove proposte, l'idea che Saviano possa fare in qualche modo il patrocinatore di questa lista, che potrebbe vedere Concita De Gregorio, Gustavo Zagrebelsky, Eugenio Scalfari anche tra le persone papabili come uomini forti di questa lista civica. Ma la politica non è finita qui. Avete sentito, no? Visto che si diceva Via Tiberina bloccata per le proteste contro una ipotesi di discarica a Pian dell'Olmo. L'Italia. Allora, a proposito di politica, mi ha incuriosito molto il titolo di apertura oggi di Libero, notizia che Libero mette in prima pagina, secondo me è una notizia che merita. Monti salva i trombati, questo è il titolo di apertura. La vicenda riguarda, altri giornali ne hanno parlato, ma in maniera un po' più dimessa. La notizia riguarda il disegno di legge anticorruzione che, su proposta del ministro della pubblica amministrazione Patroni Griffi, vietava la candidatura, in un emendamento, la candidatura a incarichi pubblici per chi aveva fatto il politico negli ultimi 3 anni. Era una cosa che secondo me molti italiani avrebbero apprezzato. prevedeva infatti lo stop, come racconta Francesco De Dominicis a pagina 2 di Libero, prevedeva lo stop a incarichi pubblici per chi aveva ricoperto ruoli politici nei 3 anni precedenti, un modo netto per spezzare le gambe a un giochetto assai noto: chi perde lo scranno in Parlamento o un posto al Ministero viene ricompensato con un incarico in un ente pubblico, una società controllata dalla pubblica amministrazione, in authority tra le tante a carico del bilancio dello Stato. Come si suol dire, i classici trombati della politica, no? Vengono definiti così, e che finiscono in authority, in enti pubblici, eccetera. Era una buona cosa vietare questa. Ovviamente è durata 24 ore. C'è stato un attacco a questo, la casta trova la scappatoia. Sentite che cosa si è trovato, no? La spiegazione dello stesso ministro Patroni Griffi. L'emendamento presentato dal governo, che prevede lo stop per 3 anni a ex politici o candidati che vogliono essere assunti ai vertici della pubblica amministrazione, così come è scritto, non riguarda gli ex parlamentari. E perché? Perché quelli non fanno politica, forse si potrebbe ironizzare, quindi non facendo politica vera possono occupare i posti della pubblica amministrazione. Cioè, l'emendamento che prevede lo stop a incarichi pubblici per chi ha ricoperto ruoli politici nei 3 anni precedenti, così come è stato scritto, lo ha detto lo stesso ministro che in pratica l'ha proposto, non vale per gli ex parlamentari. E scrivetelo meglio, verrebbe da dire. Oppure, non lo so, c'è la norma ad parlamentar, come si dice in latino, aiuta, parlamentaros, ma non lo so, vabbè, insomma, la norma personam per i parlamentari. E vabbè, così è. Sta di fatto che Libero lo mette in prima pagina: Monti salva i trombati. Veniamo in altre cose. Oggi il ministro all'istruzione Profumo fa una nuova intervista. Domenica aveva parlato con Repubblica, oggi lo fa con l'Unità. Maria Grazia Gerina lo intervista a pagina 2 e 3. È un po' nella bufera dopo che ha annunciato una riforma che domani andrà in Consiglio dei Ministri, nella quale annunciava tanti soldi per promuovere il merito nella scuola. I sindacati hanno subito protestato. Oggi cambia un po' la linea del ministro Profumo. Premio all'impegno, serve alla scuola e fa bene al paese. Ribadisce, ci saranno 30 milioni destinati al merito, il resto delle risorse saranno invece per promuovere la scuola tutta. Però certo, ribadisce Profumo, che ora un po' scottato dalle polemiche dice domani si scopriranno le novità, nell'ultimo concorso bandito dal Consiglio della Ricerca francese il 40% dei vincitori sono italiani, quindi siamo bravi, però dobbiamo diventare un paese davvero europeo. Ci vuole speranza, ci vuole trasparenza, ma un punto fondamentale, lo ribadisce il ministro, è ancora il merito. Vedremo come domani si concretizzerà tutto questo. C'è tanto del terremoto. Il Sole 24 Ore fa con i suoi inviati tutta un viaggio tra le reazioni d'orgoglio nel mercato, nel comparto del tessile, nel comparto del biomedicale, dei settori produttivi colpiti nell'Emilia, che sta cercando di emergere, anche se tutte le polemiche sono su questa idea che lei stessa, il ministro della giustizia, ha definito piccola idea. Sembra una piccola idea, ma una grande, ecco, mi verrebbe da dire una grande baggianata, si può dire, quella di proporre che alcuni detenuti, circa 300 detenuti, aiutino a ricostruire l'Emilia. Cioè, un'uscita un po' così, sembra estemporanea. Detenuti, l'ultima della Severino, usiamoli per la ricostruzione, così titola il Fatto Quotidiano. C'è anche un'intervista, La Stampa intervista con Paolo Colonnello, il numero 2 del Dipartimento Affari Penitenziari, Pagano, che conferma, si potrebbe fare, non c'è nessuno scandalo, anzi il lavoro per i detenuti è importante, comincino a restituire qualcosa alla società, si sentirebbero più tutelati. Sta di fatto che oggi è molto duro Marco Travaglio in prima pagina del Fatto Quotidiano. Ora ci si mette pure la ministra Severino con un'idea bislacca da staglio e olio: utilizzare i detenuti non pericolosi in regime di semilibertà per ricostruire l'Emilia. Naturalmente non se ne farà nulla anche stavolta, ma la trovata, un risultato l'ha già sortito, quello di trasformare Calderoli in un genio con la sua proposta di ovvio buonsenso di usare i nostri militari ritirandoli dall'Afghanistan. La ministra Severino deve aver visto troppi film americani sulle ferrovie della nuova frontiera del Far West o sui galeotti con la palla al piede nelle piantagioni di cotone. Alle popolazioni colpite del sisma non serve manodopera, purché sia, visto che c'è poco da scavare. Servono operai e muratori specializzati per ricostruire edifici. Una manodopera che non si trova nelle carceri, ma nelle aziende, a cominciare da quelle emiliane, che sarebbero prontissime a ripartire, a ricostruire se avessero il denaro per farlo. Se c'è una cosa che in Italia non manca, sono i volontari della Protezione Civile e di altre organizzazioni laiche e religiose. Occorrono soldi, non braccia. E poi chi sarebbero i detenuti non pericolosi? Quelli in semilibertà un lavoro già ce l'hanno. Visto che la condizione per accedere a quel beneficio è appunto l'esperienza lavorativa fuori dal carcere, restano quelli in cella, cioè quelli pericolosi. Poi per trasferirli nelle zone terremotate occorrerebbe uno spiegamento straordinario. E poi a sera dove vanno a dormire, visto che non possono tornare in carcere? Nelle tendopoli? Insomma, un'idea definita appunto bislacca da me, ma a dir poco, su questa dei detenuti. Ci sarebbe ancora tantissimo da leggere, oggi i giornali danno molti spunti anche sul Papa eccetera, ma devo chiudere. Allora voglio chiudere con il calcio. Un appello è questo: pare che il Paris Saint Germain sia pronto a dare 40 milioni per Ibrahimovic, tanto che la Gazzetta titola assalto a Ibra, e io che lo ribadisco da giorni su Twitter con l'hashtag via Ibra dico: e che aspettiamo? 40 milioni sull'unghia. Via, subitissimo, via Ibrahimovic. Non aspettiamo neanche mezzo secondo. Il giornale radio.